Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Maggio, mese di tasse, tra queste ce ne sono anche di nuove o di nome cambiato. La TASI, ad esempio, la tassa sui servizi indivisibili. Ben trovato il presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Dunque, la chiarezza si sta facendo sempre più avanti, man mano che i comuni pubblicano le delibere in cui fissano le proprie aliquote per la TASI, con l'aliquota base stabilita dal governo che è all'1 per mille. Alcuni comuni l'hanno già decisa, altri lo decideranno, poi c'è il problema delle scadenze. Voi però contestate un po' il metodo, giusto, su questa nuova tariffa. Certo amico, innanzitutto alla vigilia di quella che è una nuova tassa, dove ci sono solo tante idee e confuse, certamente il nostro auspicio è che non si possa annunciare la solita ressa negli uffici comunali da parte dell'agente, perché come sempre ormai siamo abituati ad aspettare l'ultimo giorno per capire come funziona e soprattutto anche per i comuni organizzarsi per dare questo tipo di servizio, quando invece sarebbe bella abitudine cominciare a farlo già un mese prima. Ma la seconda cosa è la più importante, è proprio il metodo, perché noi quelle che sono le rendite, le tasse legate alle rendite catastali, le contestiamo interamente come metodologia, in quanto la riteniamo discriminatoria, in quanto sappiamo ci sono persone che hanno cascine milionarie in mezzo ai campi che valgono poco, mentre ci sono persone che hanno appartamenti da 70 metri quadri in centro di una città e pagano tre volte tanto. E come metodologia contestiamo il fatto che appunto determinare una tassa su una rendita catastale, quando un paio d'anni fa il nostro buon governo Monti l'ha già aumentata del 60%, diventa veramente l'ennesimo salasso per le famiglie. Il sindaco del mio comune, nel testo ufficiale di un'interpellanza, quindi pubblicata nel verbale del Consiglio Comunale, ha detto chiaramente che la TASI di fatto sostituisce l'IMU prima casa, che era stata abolita nel 2013. È così di fatto? Non ho dubbi, e noi abbiamo sempre anche qua manifestato il nostro disappunto, perché di fatto hanno trovato il modo di reintrodurre una tassa sulla prima casa. Ricordiamo che prima l'ICI, dopo l'IMU, la mini IMU, la TARES, adesso c'è la TASI, hanno trovato solo una definizione diversa a una tassa che sostanzialmente andiamo nuovamente a subire, perché se prima l'ICI o l'IMU era legata alla prima casa, adesso ti raccontano le barzellette che è legata ai rifiuti, ai servizi indivisibili, alla manutenzione del territorio, quando sostanzialmente già lo faceva e già su questo paghiamo anche un addizionale IRPEF comunale. Quindi, tornando a quello che è uno stratagemma adottato dai politici di voler tassare la prima casa, dobbiamo anche pensare che, al di là di quelle che sono poi le numerose detrazioni, perché bisogna dire ce ne sono diverse, bisogna anche cominciare a superare il concetto che, per esempio, chi abita su una seconda casa data dai genitori non può sentirsi privilegiato o dover pagare un sacco di soldi, ma dobbiamo cominciare a dare significato di quella che è un'abitazione e di quella che sono poi anche gli inquilini che la abitano, con i propri figli e con le proprie difficoltà a far quadrare i conti. La TASI si applica per legge appunto alla prima casa e la pagano i proprietari e anche gli inquilini. Sì, però attenzione, perché quest'anno non la pagheranno solamente chi abita sulla prima casa, ma la pagheranno anche in quota parte circa il 30% di coloro che sono in affitto. Quindi anche questo non lo riteniamo giusto, perché pensiamo a quante persone non hanno potuto, non riescono a comprare se quattro mura e hanno optato per potersi dare un futuro, andare in affitto, adesso si trovano a concorrere a una tassa sulla prima casa sostanzialmente. Voi citate come buon esempio, se ne ha parlato nei giorni scorsi ed è in corso proprio l'asta in questi giorni, per l'isola di Poveglia nella Laguna Sud di Venezia. Sì, è un esempio a cui noi abbiamo voluto affrontarne l'argomento ora, quando si parla appunto di TASI, perché vediamo come proprio a Venezia è capitato che un'associazione ha raccolto un sacco di aderenti per partecipare a un'asta di acquisto a un'isola, perché si vuole fare in modo che un patrimonio come un'isola di Venezia resti veneziano e come solito non vada a finire in mano a qualche privato che abbia come unico interesse quello di speculare sull'isola e realizzare hotel in barba a quello che magari un patrimonio che riteniamo sia un patrimonio di tutti. E certamente questa iniziativa di quest'isola di Poveglia è un'iniziativa che si allaccia sull'argomento della TASI, perché comunque vorrebbe far riflettere su quella che potrebbe essere una grandissima lezione di stile che queste persone, mettendosi assieme, hanno cercato di dare nei confronti di un'amministrazione e di imprenditori che invece vogliono solo far caso, speculare. Questo perché la TASI a Venezia ce la si aspetta più alta rispetto ad altre città. Chiaramente chi abita a Venezia paga tra le TASI più care d'Italia, perché comunque sappiamo che Venezia per definizione ha delle rendite catastali legate agli appartamenti, pensiamo anche a Lido o qualsiasi altra isola, o come quelle che si affacciano al Canal Grande, che hanno valori spropositati. Certo è che questo può essere un ragionamento ampio da voler approfondire, ma bisogna tener conto che Venezia sta anche subendo proprio uno spopolamento vero e proprio in questi anni, perché chi ci abita non riesce più a sopravvivere in virtù del fatto di queste difficoltà legate non solo a una logistica ma anche a un costo. Torniamo alla TASI, che viene calcolata come per l'IMU, prima o seconda casa attività commerciali, appunto sulla rendita catastale di cui abbiamo parlato. Rendite che però sono state aggiornate, e non è detto, Carlo, che non ci sia un ulteriore aggiornamento in questo periodo. No, perché purtroppo ormai colpire sulla casa sta diventando non più un'invenzione ma una consuetudine. Certo è che determinare una tassa sulle rendite catastali noi lo riteniamo, anche come ha detto, ingiusto e discriminatorio, perché poi non c'è un'uniformità nel rispetto anche delle persone che abitano in una città o in una zona della città rispetto ad altre, e soprattutto anche perché noi riteniamo che comunque colpire la casa in virtù dei costi di mantenimento, dei sacrifici che le persone hanno fatto per poterla acquistare, certamente la riteniamo fortemente ingiusta, e quindi certamente sosteniamo tutti coloro che in questa tassa trovano tutto lo loro sdegno e lo loro sgomento. L'ultima cosa la diciamo sulle scadenze. È nota ufficiale della Commissione Finanze e Bilancio della Camera che i comuni che non vanno al voto per il sindaco tra pochi giorni avranno un'unica scadenza il 16 dicembre. Tutti gli altri, se comunicano entro il 31 maggio la loro delibera al Ministero, avranno la prima scadenza al 16 di giugno. Anche qui non ci siamo. Sì, anche qui non ci siamo, perché dovremmo solo aspettarsi una resa all'ultimo minuto, perché anche qui non si può pensare che ci siano tante iniziative, una diversa dall'altra, e tante metodologie le più svariate rispetto a quelle che erano anche i modi di calcolo che negli anni scorsi eravamo abituati a utilizzare. Pertanto dovremmo solo attenderci grande panico, grande resa, grande confusione e tanta rabbia. Faremo chiarezza anche nei prossimi giorni, appena avremo ulteriori dettagli, ma tra due giorni ci ritroviamo con l'Adico per un altro argomento da approfondire. Grazie al presidente Carlo Garofolini e buon proseguimento. Grazie a te, Mirko, saluto tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.